Certi incontri cambiano la vita. Un giorno ho incontrato questa frase: sii più gentile del necessario, perché qualunque persona incontri sta combattendo la sua battaglia. Ho iniziato a chiedermi il motivo per cui quella frase mi avesse colpito così tanto e ho pensato: in fondo la gentilezza fa piacere a tutti, nessuno escluso. A tutti fa piacere essere trattati da persona. Gesù nel Vangelo la esprime così: qualunque cosa volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatela loro. Questa è tutta la legge e tutti i profeti. E non è un caso che questa regola d'oro sia presente in tutte le tradizioni religiose del mondo. Ma quella frase dice qualcosa di più. Dice che la gentilezza fa piacere a tutti perché tutti quanti stiamo combattendo una battaglia. Non è bello essere in guerra. Non hai mai un momento di pace e di tranquillità. Hai sempre in mano un'arma. Sei sempre in tensione, in allerta. Sei sempre pronto a difenderti e ad attaccare. Ognuno di noi sta combattendo la sua battaglia. E questo è vero, è verissimo. Per alcuni è la salute. Per altri la salute dei propri familiari. Per alcuni è il lavoro. E alcuni lottano per tenerselo stretto. Altri lottano per cercarlo. Alcuni sono così stremati da questa lotta che hanno deposto le armi, si sono fermati, non lottano neppure più. Per tanti altri, giovani o meno, la battaglia è con se stessi. Non riescono a scendere a patti con la propria persona, con la propria immagine fisica, con la propria interiorità. Non hanno autostima e quindi hanno sempre bisogno di dimostrare qualcosa agli altri e a se stessi. E chi di noi ha vissuto questa battaglia sa quanto sia sfiancante. E poi tutti abbiamo bisogno di amore e anche questo ci porta molto spesso a lottare e a combattere. Le relazioni stesse sono spesso un campo di battaglia faticosissimo. E poi la crescita, la gestione degli affetti, la famiglia da mantenere, le amicizie. Quante battaglie viviamo ogni giorno? Qual è la battaglia che tu stai vivendo? Qual è quella guerra per cui ogni mattina, quando ti alzi, come prima cosa imbracci subito un'arma? Ecco perché abbiamo tutti bisogno di gentilezza, perché se ogni persona che incontriamo sta combattendo la sua battaglia e tiene sempre stretta a sé un'arma, nel momento in cui incontrerà una persona gentile, ecco che finalmente potrà pensare: questa persona mi sta trattando bene, è gentile e quindi non sta combattendo con me. E quindi posso finalmente posare la pistola, il coltello, posso finalmente per un attimo rilassarmi. Guardate questa immagine, è un pesce rosso immerso nella sua boccia d'acqua che porta sulla schiena una pinna da pesce cane. Quando incontri una persona che ti sembra un pesce cane, prova a pensare che si tratta soltanto di un pesce rosso con la pinna di un pesce cane. E forse sarà proprio il tuo gesto di gentilezza che gli permetterà finalmente di togliersi da dosso quella pinna da pesce cane e di vivere anche lui nella gentilezza. Abbiamo tutti bisogno di gentilezza, nessuno escluso. Non sempre possiamo sapere quale battaglia stia combattendo la persona davanti a noi, ma sicuramente ne sta combattendo una. Ecco perché dovremmo provare ad essere più gentili del necessario, sempre e comunque, perché è quello che ognuno di noi desidera, perché è quello di cui ognuno di noi ha bisogno.